Allora, adesso abbiamo un compagno che ci dirà che cosa in arabo e poi in italiano che cosa è successo. Se vuoi in italiano, se non vuoi. Che cosa è successo stamattina in Via Iglesias? Ciao a tutti, prima iniziamo in arabo ragazzi. Salamu alaikum al khos. المهم احنا غادي نحكيو داكشي اللي وقع علينا الصباح، الناس اللي ساكنين في اغريسياس. المهم الصباح ناعسين، ما علينا ما بينا، تقريبا مع ديك 7 الصباح تنسمعوا البيبان كيتخبطوا باق بربلاق. المهم تخبطوا البيبان شويه، دخلوا لقينا اش نقول لك، جيش، ماشي ناس بوليس ولا جيش، من جميع البوليس gli sbirri, tutti, tutti. Manca solo l'elicottero, quello che mancava. Va bene, sono entrate ogni casa, è entrato, sono e i bid khlu yani dkhlu nas 3 4 5 ديال البوليس في كل دار، وكيف رجعوا الباب صحه، حليتي الباب وهذاك ما حليتيش يفرقعوا عليك الباب. المهم المهم هضرنا معاهم بالاداب مزيان، المهم تما طرا هزينا داك الشيء ديال المسائل ديالنا، الحوايج ديال الزينه اللي قدينا عليه، وباقي عاوتاني مازال بزاف ديال الحوايج. المهم هذا الشيء اللي داروا هاد الناس، هادو حشومه وعيب وعار عليهم. علاش؟ حيت هاد الناس هنا واخا الانسان تيبغي يمشي يكري ما تيكريوش ليه، حيت سترانيور وحيت مهاجر ما تيكريوش ليه. عاد زيد عاوتاني الكونتراتو اللي خدام بها، ولا النولوسوش خدام بكونتراتو ستيبينديو، يا الله يا الله تقريبا باش ياكل بنادم. الوغ كيفاش غتكري؟ كيفاش غتخلص البوليطات؟ كيفاش غت عاد زيد عاوتاني كاين لي كازا دي كوموني، لي كازا دي كوموني سونو كيوزي بير نيانتي، سونو دي ملياري دي كازي. ايه ما بينك ويلو كي سيتشيسو. مهم كنت اسف على راسي وعلى الناس ديال اغريسياس كاملين، ونتحدوا وان شاء الله مازال غادي نعاودوا شي اوكوباسيوني اخرى ان شاء الله. ديما خصنا نكونوا مستعدين، وحنا معاهم تل الافي تل الموت. يلا وشكرا الاخوان، والسلام عليكم. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بالمارة، مرحبا بكل الجمهور. نحن ساكنة إغريسياس، اليوم تعرضنا للهمجية والظلم والتعسف والطرد الإجباري من المسكن الذي كنا نقتنه مدة 2 سنين بل 4 سنين. هذا التدخل إنه تدخل تعسفي وتدخل لا عقلاني وتدخل لا إنساني. لقد قاموا بتشريد العائلات وتشريد الأطفال الصغار وتشريدنا نحن أيضا، وكما احتللنا هذا المكان سنحتل مكانا آخر. ويحيى الجميع بالنضال. إنكم ظالمون. إيطاليا كلها واسعة، سنحتل مكانا هنا ومكانا هناك، ولو استدعى الأمر سنحتل أيضا مركز الشرطة أنكي لكويستورا أنكي لسبيدالي توتي لبوستي دي إيطاليا. إغراسي ميليا توتي. Andiamo in strada e ci facciamo una passeggiata senza andare, senza dire che andiamo in strada. Manu, aspetta, vai. Anche prima un altro intervento. Vai. Possiamo parlare un po' di gente. Sì, fino alle 8:30. Vai, sempre. È spagnolo, parlo? Tu vuoi adesso? Vai, sulla lotta. Sì, che no es justo que no se convene la lucha perché hay tanto figlio, tanto bimbo. Buenas tardes a todos. Estoy parlando en español. No me parece justo que viendo tantas casas vacías nos esconveren, nos boten así con los bimbos. Con tantos niños que hay. Okay. Bueno, seguiremos luchando y esperando que nos puedan apoyar para seguir buscando una casa. Esperemos que nos quieran afitar o ayudar, no lo son. Con este caso de la sanatoria, con el permiso de soggiorno, no se puede afectar una casa. La preocupación es de nosotros es los filhos, los hijos. Bueno, en tanto, esperamos la ayuda. Gracias. Solo per dire che continuiamo la nostra protesta e percorrendo via Padova e per raggiungere Iglesias. Ecco, comunque sono la parola d'ordine: basta sfratti, basta sgomberi, basta sfratti, basta sgomberi, basta sfratti, basta sgomberi, basta sfratti, basta sgomberi. Sono nulla non ci annullerà di questa nuova era, di questa nuova era, di questo nulla non ci annullerà di questa nuova era, folle per fomento brucia ogni bandiera. E questo nulla non ci annullerà in questa nuova era, colle del fomento brucia ogni bandiera. E questo nulla non ci annullerà in questa nuova era, colle del fomento brucia ogni bandiera. Per necessità, altro che down, questo è l'acqua. Altro che down, questo è l'acqua totale. Altro che down, questo è l'acqua. È rock, da ogni botta un quintale, il livello che sale. Mai ghiaccio, mai ghiaccio, la forza è niente senza il controllo, niente, io parlo niente, chiaro, chiaro come il cristallo, chiaro, a testa alta anche quando va a collo, tu mi chiedi 10 o ti do 100 e decollo, sì, la forza è niente senza il controllo, sì, io parlo chiaro, chiaro come il cristallo, chiaro, a testa alta anche quando va a collo, tu mi chiedi 10 o ti do 100 e decollo, io anima e ghiaccio. Qui se stai a far cinema, io ho una linea più cinica, sputo su ogni infame che mimica e stimola, rap graticola in bocca, che apre la testa a una nuova porta, ma solo per chi l'ascolta è una svolta. E se è vero che veniamo da qui, non può finire così, detto chic la rivolta. E non conta se sciali, conta solo se vali come una volta. Detto chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vietto è qui, puoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono ghetto chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vietto è qui, non confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli sono ancora sul quadrato e mo colpisco quando capita. Ogni mia rima punta alla tua testa e decapita. Foglie del fomento mo spigne, carica. Nel panico de nascita che metà pare una discarica e metà illumina. Se rap con l'anima pesante, trick sul ring e ogni suo singolo montante, sì, sul comandante. Permetto ad ogni giovane che ha detto sull'attenti all'istante. Cercami fra cassa e rullante, stop. No pub, no club, sopra il colle faccio il rap. Zio, dammi il soul clap, what the blood clap. E più ci provi più te passa come un uppercut. Oh, scendo a parte cassa con un volume fisso a 100 e noi s'abbassa. Colle del fomento, roba seria che yei mo basta. Sfanculo il tuo convento e la miseria che ci passa. Fuori dalla massa, lontano da ogni forma, oltre i tuoi perimetri con il mio rap combat. Difendo, offendo, sfondo, metto 9 mm di spazio profondo fra me e il tuo mondo e l'affondo. E mi capisci, zi, che non lo so se poi alla fine mi capisci, zi. Io faccio tanti bei discorsi ma alla fine qui chi c'è, chi non c'è, dovrebbe esserci. Eh sì, che tu chic, massicci, la linea di confine mi capisci, zi. E se il vietto è qui, puoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. Ciao, qui è sempre Mala Radio, in diretta da via Padova e dintorni. Abbiamo deciso di fare la diretta qui perché è qui che hanno, in questo quartiere, precisamente in via Iglesias ad altezza Gorla, che stamattina hanno sgomberato, ingenti forze di polizia e carabinieri, hanno sgomberato un'occupazione dove da 3 anni ormai vivevano almeno una 50 di persone, con quindi famiglie soprattutto con bambine e bambini. queste persone sono rimaste tutto ad un tratto senza casa, e non è che per sport o per hobby avessero deciso di occupare, ma sia per bisogno che per rivendicare il diritto di avere un tetto sulla testa, visto che poi a Milano ci sono tantissime case vuote. Quindi al grido di basta case senza persone senza casa, e vogliamo un tetto sulla casa, adesso il corteino, insomma la camminata di queste persone arrabbiate perché sono state sgomberate, percorrerà via Padova con l'intento di tornare nella loro casa, che era in via Iglesias. Noi rimaniamo qua, un po' cercheremo di raccontare al quartiere e a chi ci ascolta cosa sta succedendo, e per ora questo è tutto. Se volete scriverci o se volete mandarci un messaggio, un Telegram o Signal, fatelo al numero che o alla mail che è malaradio@autistici.org oppure al numero di telefono che non c'è neanche qua, che ve lo diremo tra poco. Ah, esatto, abbiamo qualcuno che se lo ricorda a memoria. 351 91 82 889. Abbiamo già ricevuto una richiesta prima, un'oretta fa, da qualcuno che abita qua di fronte. Grande, ecco che è sceso qua, grazie. Quindi scriveteci e esaudiremo i vostri desideri. Chiedeteci canzoni. E i miei fratelli nella merda sono pietusci, massicci. La linea di confine mi capisci, sì. E se il pietro è qui, puoi confonderti. Non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono brutti, sporchi e cattivi. Veniamo dal basso come un gancio al mento, mentre tu ridi e sporti un po' della tua crisi che vivi. Ma il resto sono trucchi e falsi esplosivi. L'odio fa crescere l'odio soltanto, è come polvere che acceca il come ed il quando. Non fa per te più strisciare nel fango, ma qui non passa chi ha più fame, chi ha più fame sta ricominciando. Alzo il volume della radio da guerra del coma, non passo più la parola, il mio suono che suona con la faccia di nessuno, senza zona, senza piani nelle mani, questa formula adesso funziona. Fior di corallo, ci avessi effetto fatto tutto di cristallo, perché c'ho dentro lui il sottillo, potresti anche vederlo. Dietro chic, nuova hit, cuore più cervello, per strada ci passo ma non ci rimango, rimando a te e la tua posi. Comando il bullismo, piuttosto io sono il buddismo. Colle del piega con rap, no, egocentrismo. Chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vento è qui, puoi confonderti. Non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono ghetto. Chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vento è qui, puoi confonderti. Non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono ghetto. Chic. Passeggiata che si sta muovendo verso Iglesias, dove oggi 50 persone sono state sgomberate dalla casa che abitavano da più di 3 anni. Via Iglesias era un posto di incontro, di amicizia, di lotta, le persone si davano una mano a vicenda, c'era un grande orto, ognuno si era costruito la sua stanza, la sua casa. È un luogo che tanti di noi hanno attraversato in questi anni vivendo a Milano e trovando sempre apertura per potersi incontrare anche in periodi difficili. Iglesias ci ha sempre accolto, ci ha sempre ospitato e siamo in tanti e tanti molto legati col posto. Sgomberano le vecchie fabbriche vuote e sgomberano le case popolari. La vita è una rapina, mandiamo i padroni a vivere in cantina. Ma qua non mi rispondere più, no, Totò mi ha chiamato la radio, mi ha detto aspetta che dobbiamo collegare, però no, non parte. Questo che sentite, questo suono di tamburi che sentite nel sottofondo, è la murga, un'arte di strada che viene dagli schiavi africani in Argentina. È un gruppo musicale di neonato, nato quest'anno, e dove si facevano le prove appunto nello spazio occupato di Via Iglesias. Gli abitanti avevano dato disponibilità anche partecipando a questa danza. Che poi con questa danza hanno percorso varie situazioni, tra cui Ventimiglia e cortei, e per questo anche che quindi adesso si partecipano a questo, in solidarietà agli abitanti di Iglesias che sono stati sgomberati stamattina in questo quartiere. Vai. Pronto? Ludo? Non risponde nessuno. Pronto, ci senti? Ci senti? Pronto? Sì, ci senti, ciao! Pronto? Allora, ci senti adesso? Ci senti? Sì, mi sento. Okay. Ci sentiamo bene, tra un po' non ci sentirai più di nuovo. Se tu ci vuoi raccontare... Sgombero di Via Iglesias avvenuto all'alba e che si è protratto fino alle 4. Adesso gli abitanti insieme a compagni e compagne stiamo facendo un corteo che è partito da tutta Via Pado, è partita dall'anagrafe e arriveremo fino in Iglesias, laddove c'è ancora la casa che stamattina è stata sgomberata, per denunciare che gli sgomberi non sono la soluzione al problema abitativo, che gli sgomberi sono solo parte della speculazione e della espulsione di tante persone dai luoghi dove sono cresciuti e hanno costruito relazioni. Passiamo altre voci, un abitante della casa che adesso racconterà un po' com'è andata la giornata oggi. Ciao a tutti e a tutte. Stamattina hanno effettuato uno sgombero in Via Iglesias, dove ci abitavano diverse famiglie e diverse persone singole, lavoratori precari con un contratto misero, che persone, famiglie in attesa nella lista collocamento per la casa. La struttura di Via Iglesias era una struttura privata abbandonata al degrado da diversi anni, dove diverse famiglie si sono organizzate a prendersi una casa, visto che il comune non gliela concedeva a un prezzo, diciamo, quelle popolari. Stamattina, durante tutto lo sgombero, è stata militarizzata tutta la via, dove le sedi sociali incaricate dal comune, dall'istituzione, hanno proposto alle famiglie, e l'unica soluzione che gli hanno offerto è stato un ostello temporaneo a definire la loro posizione. Un ostello che è stato pagato dal comune o non so da chi, per 10 giorni. Dopo 10 giorni non sappiamo ancora in che situazione si trovano i minori. A parte quello, nell'ostello non possono entrare i padri dei bambini, solo le madri con i figli, quindi lo Stato sta dividendo diverse famiglie che sono in difficoltà economiche, in difficoltà abitative, e ce ne rendiamo conto che non capita solo a Milano ma in tutte le grandi città, dove il lavoratore operario o vive sotto un ponte, il lavoratore in nero ormai non riesce ad affittare una casa, i prezzi che fanno sono un po' con le riqualifiche in tutti i quartieri, sono saliti pure alle stelle. Siamo in live. Non so chi è, qualcuno che vuole parlare? No. Il corteo sta proseguendo in via Padova all'altezza 166 e proseguirà fino a via Iglesias, dove ci aggiorneremo sul proseguimento della serata, del corteo. Avete fatto un intervento? Posso fare ogni cosa in questi giorni, se pochi secondi te ne accorgi, giorni in cui la pioggia non si ferma, sfida la mia calma e trova la sua nuova arma, meno saggi e più intranquilli, un pezzo davanti agli altri, queste come devi mostrarti, anche se dentro stai morendo puoi fidarti, 30 cercati per capire come posso salvarti, cerco l'affetto come sempre, ma non aspetto quando tra la gente, bevo una bevanda dissetante, il tempo della comunicazione, un senso di soddisfazione tra le persone, parlo eppure sono il primo che non cambio, come duro come il marmo, come posso stare meglio in questo tempo, se meglio in questo tempo è solo quello che invento, capisci? Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, questi giorni non mi lasciano. Ah, 20 e 24, ma la radio in diretta da via Padova davanti all'anagrafe. Tra le 8:30 partiremo con la solita puntata di Malaradio, ultima puntata stagionale e puntata straordinaria. Abbiamo deciso di farla qui perché ricordiamo che stamattina in via Iglesias 27 alle 6:30 si sono presentate le forze dell'ordine per sgomberare un'occupazione abitativa che esisteva dal 2018, dove vivevano circa una cinquantina di persone, donne, uomini, bambini e molte famiglie. Allora, tra poco andremo in diretta, ancora 5 minuti, rimanete connessi con Malaradio. Passeranno e se ne andranno, ricordo che c'era la speranza per i nuovi che verranno, e anche se non so come saranno, quando sarà giunto allora noi sempre qua ci troveranno. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più, questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande, domande. Punti di domanda ovunque, in giro per la strada e dentro la mia stanza come ombre lunghe. Ho molta più calma, zero denti e unghie. Questo aggiunge carisma, lancio gemme ed ogni gemma è una firma. Divido sensazioni come luce in un prisma. Passo attraverso le persone come fossi un fantasma. Una linea che danza, mi vedi. Sono per le strade, sono intorno ai tuoi piedi. Tra sputi, rifiuti di ieri, ho fatto mille pensieri. Racconto la storia, memoria di palazzi e marciapiedi. La gente spinge, stringe, finge. Viaggia talmente, cosa resta per me? Niente, la più potente delle bombe. La mente capace di inventare le bombe. Comprende chi vende, gioca con le mie paure. Cerca, schiene, trova nocche dure. Domande, domande, qui nulla mi sembra importante. Un pecore, un bacio, un diamante. Muovo le mie forme da persone arroganti. Cercando situazioni appaganti. Lo sguardo mio sempre avanti. Passione con i crediti dei vostri contanti. La mia gente con sempre più domande. Ma che so? Che manca poco, questo devo andare alla grande. La mia testa con sempre più domande. Ma che so? Che per capire mo devo subire alla grande. Quando fa brutto passo in mezzo ad ogni goccia di pioggia. La testa se la spiaggia e m'appoggia. A gambe, a braccia, raggiungo da Cambogia. Seguo la mia prassi, i miei passi, l'invasione della zona grigia. Una luce che lampeggia, mi segue. Passo fra chi ciecamente crede, non si chiede, non si concede. Manco uno spiraglio, per questo con tutte le difese a ventaglio. E sto spegno, con un cervello a sonagli, imparando a camminare sulle corde andando avanti. Guardo dove tu non guardi, so accorto, perché so che sono in cielo, non c'è disaccordo. È un punto, come un cappio, con il collo. È un altro grosso dubbio che mi accollo. Intanto, cerco un agguaglio e certezza. Nel mondo blindato e fortificato, peggio di una fortezza. E niente mi spezza o mi piega. Chiudo la tensione nell'odore della strada. E vada come devo andare, c'è sta l'istinto. Che pure se si mette male fa sì che non mi apervinca. E sì che spingo, so chi controlla il mio destino. Dico da in colla al centro di un mirino. Mi apposta se cerco una risposta. Con il trucco che più gli sto vicino e più si sposta. La mia gente con sempre più domande. Ma che so? Che manca poco, per questo devo andare alla grande. La mia testa con sempre più domande. Ma che so? Io per capire mo devo subire alla grande. Tocca fare i miracoli qua fuori, tocca stare allerta. Non si gioca, qui si affoga nella merda. Mi prendono per culo, ne so più che si giuro. Qui giocano col presidente e mi rubano il futuro. Metto punti di domanda sul muro e non mi aspetto che risponda qualcuno. Ormai non rido e non mi fido di nessuno. Cammino per la strada e grido un grosso vaffanculo. Più duro lo strato che mi ricopre. Più di uno i deliri su queste note. È più sicuro il buio della notte. Ma nessuno se ne accorge, la gente se ne fotte. Sto con gli occhi aperti, osservo. Ogni situazione è un'emozione che conservo. Jake, Mazzito e Manero, il turco. I migliori motori e in più metti il turco. La mia gente con sempre più domande. Ma che so? Che manca poco, per questo devo andare alla grande. La mia testa con sempre più domande. Ma che so? Io per capire mo devo subire alla grande. Domande. Ciao, come va? Ma perché mi hai portato qua, tipo, a passare questa... perché c'è orario. Ma Pasqua, c'è l'anagrafe qua. Ma come c'è l'anagrafe? Ma io sono già registrata l'anagrafe, scusa, nel senso anche giù in un'altra regione. Sì, ma qua vicino è successa una cosa molto importante. Scusa, che è successo? Ma quando, stamattina? Stamattina, ma scusa, ma... cioè, non sai niente? Non so niente, no, perdonami, scusa, cos'è successo stamattina? Siamo all'anagrafe di via Padova, ah. Iglesias, non ti, no, non Iglesias, ti suona? No, Iglesias sì, so che era un'occupazione abitativa dal 2018, ma... Ah, che stamattina, ho visto sì. qualcosa! No, che è successo? Stamattina hanno sgomberato questo posto che esisteva da quasi 3 anni. Come hanno sgomberato? Cioè, sì, gli spiriti sono entrati, ma lì c'erano sì, famiglie, via, donne, tutti, bambini, così. Uomini. Sì, sì, via, tutti, c'era massa, l'orto, fuori. Tutta una base di autogestione. E quindi niente, questi continuano a sgomberare nonostante tutto, nonostante il Covid, continuano a sbattere la gente per certo, strada indiscriminatamente. Certo, quella è l'unica cosa certa in questa città. Per lasciare sempre case vuote, spazi vuoti e lasciare spazio alla speculazione edilizia, no? Quello che è Milano. Quello che è Milano, si riconfermano, se hai dei dubbi... Ma guarda, ma io quand'è che posso... cioè, questa cosa qua, che ci sta il giovedì sera? Solitamente c'è una roba... Si chiama, che si sa aspetta, tutto. Ma una radio online, come si chiama? Malaradio! Malaradio, in diretta! eccoci di nuovo qua a Mala Radio. E oggi è una puntata importante perché è la nostra prima diretta in strada. E originariamente doveva essere in un altro posto, ma visto quello che è successo, appunto lo sgombero di Iglesias, abbiamo deciso di metterci davanti all'anagrafe di Via Padova. L'accoglienza non è stata delle migliori, devo dire. Mi aspettavo più affetto e calorosità, invece c'erano ad attenderci un tot di camionette che non erano proprio la cosa che volevamo vedere, ma non erano di certo i nostri ascoltatori preferiti. Tuttavia, in realtà, dalle case qua di fronte, dai passanti, abbiamo ricevuto invece molta attenzione, tant'è che volevamo raccontarvi anche di un signore che è appena passato e, avendo sentito quello che è successo in via Iglesias, ci ha raccontato la sua storia. Sì, mi viene da dire che è proprio il bello non solo della diretta, ma della diretta in strada, no? Anche perché Mala Radio nasceva proprio con l'idea di raccogliere voci dalla strada o comunque dai luoghi che si abitano insieme, dove si lotta, e per raccontare un po' quello che non interessa viene distorto dai media ufficiali. E una persona si è fermata sentendo proprio il racconto dello sgombero di via Iglesias di questa mattina. Non ha potuto fermarsi per raccontarlo, ma ci ha chiesto di riportarlo. Viveva in una casa del comune e non ha più potuto pagare, quindi è stato sbattuto fuori. E adesso vive con la sua famiglia, sempre su via Padova, però deve pagare 800 euro al mese, che fa molta fatica a pagare. È andato via proprio perché ha tutta la famiglia a carico, è molto preoccupato da questo. E a proposito di case del comune, ricordiamo che le case del comune, le case ALE della regione, tutte le case popolari stanno subendo in questo momento un attacco fortissimo che avviene in modi diversi. Possono essere degli sgomberi di chi occupa o anche di chi diventa moroso perché non può più pagare, o può essere anche il fatto che viene alzato il canone d'affitto perché comunque si paga nelle case popolari. E vabbè, per non fare un discorso troppo lungo, perché abbiamo tante cose importanti, interessanti stasera e speriamo anche delle voci dalla strada e dal corteo che sta andando verso via Iglesias, vi diciamo solo che siccome siamo davanti a uno delle anagrafi del Comune di Milano, che il Comune di Milano, la Regione Lombardia, ALER e la Prefettura hanno fatto svariati tavoli proprio con l'intento di sgomberare le case popolari e comunque anche tutti gli stabili privati che sono vuoti devono essere prontamente sgomberati. Le occupazioni non riescono o riescono con molta difficoltà a resistere in questa città, e però il fatto che le case o gli stabili siano vuoti non è solo incuria, ma è una vera e propria strategia, perché generano profitto chiaramente per chi lucra sulla città. E niente, avremo tante voci stasera qui a Mala Radio. Infatti abbiamo anche qua un altro abitante di Barona che ci racconterà un po' com'è la situazione lì in Barona. Poi ci collegheremo di nuovo con Iglesias, che in questo momento Solidali e gli ex abitanti di Iglesias si sono mossi in corteo verso la vecchia occupazione, e quindi li chiameremo per sentire come sta andando lì. E appunto, e poi ci collegheremo anche con una radio di Berlino, perché appunto noi non siamo l'unica Mala Radio, ma c'è una Mala Radio anche a Berlino. Pensa. E quindi li sentiremo per sapere come va lì. Anche lì, anche a Berlino ci sono stati degli sgomberi, tra i quali lo sgombero di uno spazio occupato di lunga data. E niente. Forse okay, ci siamo con una voce. Adesso sentiremo quindi da Iglesias come ci sentite. In questo momento volevamo entrare verso via Iglesias per arrivare davanti al posto, ma c'è un dispiegamento di forze dell'ordine che ci impedisce di proseguire per via Iglesias, e in questo momento sono disposti è disposta la celere schierata che ci blocca di proseguire. Non so se riusciremo ad arrivare lì davanti al posto, vi facciamo sapere. In questo momento siamo qui davanti a loro. E le loro intenzioni sono di non farci passare comunque.

droghe, controbande di reietti. La strada in quarantena, troppi a farsi troppo a darci dentro con il cocco, troppi a farsi brutti sopra il ciocco. All'occhio, è un secolo di insidie, un dedalo di invidie. Tu ricorda che il più infame ti sorride. Resto sul chi vive, difendo la contrada. So bene quanto valgo del rispetto della strada. Là fuori è Torquemada, siamo tutti di passaggio. Ricorda che il problema è l'atterraggio. La pena è il contrappasso, l'ipoteca sul domani. Dall'alto verso il basso, conto tutti e 30 i piani. Con gli ultimi moicani, lontano dagli sgami. Signor K con le combo sul tatami. Coi ragazzi cattivi che fanno a botte con i congiuntivi. Che nella merda stanno a galla come mezzi anfibi. No signore, schiaccio sul motore l'acceleratore. Toro loco con il batticuore. 20.000 reggi, solo 20.000 reggi. Noi divisi in bande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 reggi, solo 20.000 reggi. Il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 reggi, solo 20.000 reggi. 20.000 reggi, solo 20.000 reggi. 20.000 reggi, solo 20.000 reggi. Quel giorno sarà guardie contro bande di reietti. Buonasera, era spento, scusate. Siamo in via Padova, però parliamo lo stesso di Milano, in generale, di cosa cambia, cosa succede, cosa vuol dire il fatto che stiano cambiando delle cose, non solo nelle case popolari, ma anche nel tessuto urbano più ampio. Ne parliamo con un abitante di un altro quartiere, che è Barona, che è a sud. Se hai voglia un attimo di descriverci il quartiere, com'è composto, insomma, per chi magari non c'è mai stato, a grandi linee, senza fare i sociologi. E così iniziamo a introdurre un attimo cosa succede. Siamo in tema di sgomberi. Quando si tratta di sgomberi, poi molte volte sono appunto collegati a quartieri popolari dove c'è una massa di persone che, soprattutto ultimamente, dopo la pandemia, prima fase di lockdown e poi anche la seconda ondata, hanno perso il lavoro, gli licenziamenti, come stiamo vedendo anche l'agitazione dei Sicobas sui licenziamenti che ci sono stati. In questo periodo c'è un periodo comunque di carenza abitativa, nei quartieri popolari come Barona, Giambellino, che fanno parte delle case popolari di zona 6, ultimamente ci sono stati una serie di sgomberi. Tutto via comunque le case Haller, la malegestione Haller che non assegna le case, che molte sono consolidate nel quartiere oramai da tempo, comunque occupate, vissute, alcune persone hanno anche la residenza, e per via di questo poi sono successe un sacco di sgomberi. Un quartiere comunque dove ci sono anche un po' di occupazioni abitative, maggior parte anche sono nuclei familiari che sono stati anche sgomberati. Io girando un po', no, avevo notato che i civici in cui vengono effettuati più sgomberi sono sempre vicino a degli esperimenti di social housing, cioè via Ovada 34, una cosa del genere, vicino all'ospedale, che era prima di Haller, poi è diventato di MM perché Haller gliel'ha ceduto perché non sapeva gestirsi le spese, e MM a sua volta detiene la proprietà tra virgolette, e però fa gestire a fondazioni, poi le associazioni in maniera premiale con dei progettini, diciamo, contro il degrado, no? Per il decoro, così. Ma questi posti come sono inseriti nel quartiere, cioè, nel senso, c'è, cioè, la gente che abita nei posti conosce la gente delle case popolari, è gente che viene da fuori, non se ne sa niente. La maggior parte delle case Haller, MM, sono nuove assegnazioni, sono nuovi condomini, le persone sono nuove al quartiere, non vendono comunque una parte del disagio che magari potrebbe vedere un'altra parte del quartiere che si trova più nei blocchi comunque dei popolari, Mazzolari, appunto Piazza Miani, c'è Faenza 3, Faenza 1, Ovada, e per le persone solo quello è inteso disagio, perché poi è anche un po' una percezione, perché tra virgolette, quello che loro chiamano malavita, comunque le persone in strada senza lavoro sono grandi proprietari, lo sfruttamento al massimo del capitale a Milano che l'hanno prodotto. Il degrado delle popolari sta negli occhi di chi guarda, di chi vuole guardare in un certo modo, e infatti costruisce poi un villaggio barona, costruisce delle case, dei blocchi MM che sono forniti di alcuni servizi, come può essere il campetto giochi per i bambini, oppure servizi che possono comunque dare un'altra periferica a quella parte del quartiere, ma che sempre abita in centro del problema, che è la riqualificazione nelle zone comunque popolari, che produce poi, tra virgolette, il famoso degrado dipinto anche dal comune, così per poter far pulizia nei quartieri, usare la pratica dello sgombero per anche indebolire certe situazioni di resistenza di comunità, di organizzazione che si creano all'interno di questi quartieri popolari. No, ma infatti la storia della retorica sul degrado, diciamo, è nota, viene utilizzata spesso, non viene neanche tirata fuori dal cappello, è direttamente il cappello. Su quello si costruiscono, si giustificano tutta una serie di cose, come dicevi tu, io sono d'accordo, nascondendo poi i motivi per cui alcune cose succedono e anche facilitando, diciamo, l'ingresso di una serie di nuove installazioni che devono portare soldi, che le case popolari non sono abbastanza profittevoli, in questa maniera invece si attirano capitali, no? C'è anche un film, ho visto, su Barona, di Netflix. Non lo so, io non l'ho guardato, però penso che in parte faccia parte di una un'operazione culturale che comunque rende affascinante il quartiere, forse più di Marrakech. È giusto, no? Marrakech che è di Barone. E anche se abita in via Watt, che è una via di Barone un po' che inizia a essere gentrificata e riqualificata. Sì. Contenta, sì, l'altra sera un amico nostro gli ha consegnato un hamburger, ha lasciato 2 euro di mancia tassate. Il poveraccio, comunque. Povero Marra. Ha fatto anche cose buone. Comunque, a parte questo cabaret, no, non lo so, quindi secondo me anche alcune cose che magari non sono così evidenti come gli sgomberi o la presenza di pattuglie costantemente in alcune zone di quartieri che vogliono essere marcati come quelle parti degradate, ci sono anche tutta una serie di operazioni più soft che vengono fatte intorno, che poi veicolano e tendono a far giustificare di più delle operazioni violente, come possono essere degli sgomberi e lasciare la gente in strada con tutte le sue cose, non so, e poi era una riflessione così. Appunto, parlando anche del film, delle riprese, dovevano pagarci abitanti che stavano in via Teramo e Mazzolari, pur di non pagarli sono andati a offrirgli il mese gratis di Netflix e Sky, così poi potevano fare di Sky, scusa, così potevano fare poi il contratto e sfruttarli a posto di pagarli per essere stati sfruttati per delle riprese che ora avranno un valore magari nelle loro case. E tanto sono poveri, non possiamo dargli quello che ci pare, no? Sì. Non so, vogliamo dire qualcos'altro, aggiungere? Vabbè, a parte un invito a tutti a stare attenti a cosa succede anche nei quartieri in cui non si abita e cercare di portare solidarietà nei modi che si riesce, perché è importante anche non chiudersi nelle vie, ma aver presente cosa si muove, perché una cosa si muove da un lato della città, ma non è che non influenza tutto il resto della città, questo mi sentirei di dire. Io volevo fare solo una domanda, anche per ricollegare al fatto che appunto abbiamo qui stasera un abitante che abita nel quartiere Barona, giusto per contestualizzare, Barona è stato il quartiere più bersagliato dagli sgomberi dall'inizio dell'anno, del 2021. Per opporsi a questa cosa qui è molto complicato. Nel 2014 sono successe delle cose che sono riuscite a bloccare, tra virgolette, per certi versi, degli sgomberi. di sicuro in questo periodo è un po' più complicato, quindi volevo farti un po' una domanda così per cercare di capire qual è l'habitat, cosa si muove intorno nel momento degli sgomberi in Barona, qual è la risposta effettiva oltre ai compagni e alle compagne che vivono quel quartiere, se ci sono anche degli abitanti che comunque scendono nel momento in cui ci sono degli sgomberi, o comunque anche semplicemente per dare una mano alla persona sgomberata, cioè c'è premura, se riesce a esserci quell'humus sociale che comunque al di là dello sgombero, cioè, riesce a cercare di creare una comunità autogestita. Ecco, volevo farti questa domanda qui. Beh, no, io immagino come anche altri quartieri popolari o collettivi di altri quartieri popolari abbiamo cercato sempre di essere presenti alle colazioni, che praticamente si tratta di un momento condiviso tra abitanti che possono essere sgomberati, in cui si fa un giro in quartiere e si vede un po' la situazione, se c'è se ci sono segnali di sgombero, come possono essere le camionette oppure l'Alel che entra a fare i controlli e può fare gli sgomberi coatti. Però a dire la verità, almeno nell'ultimo anno è stato un po' un anno tra virgolette dormiente, anche per il fatto che c'è stato un blocco sgomberi, una campagna lanciata da Conte, io resto a casa, che le persone veramente sono rimaste un po' a casa. E poi quando è iniziato l'onda dei sgomberi, che facciamo da fine marzo, dal 25 marzo alla fine aprile, ci sono stati 6 sgomberi, 7 sgomberi, almeno comunque nelle nostre vicinanze, da persone che comunque conoscevamo le situazioni e ne condividevamo le problematiche, allora le persone un pochino ora si sono iniziate più a muoversi, a mobilitarsi per poter organizzarsi a un eventuale sgombero, a dare solidarietà allo sgomberato, alla famiglia, al nucleo o chi sia, e poter in qualche modo anche trovare una soluzione comune, diciamo, ospitalità o quant'altro. Il quartiere resta sempre solidale, le forze, comunque l'organizzazione per poter anche semplicemente creare un'aggregazione che potrebbe bloccare una piazza oppure bloccare una strada oppure avere comunque una prassi un pochino più conflittuale, è ancora difficile raggiungerla. Certo, no, poi è vero che magari c'è stato un periodo quando proprio no, c'erano tutte le chiusure così, dove c'erano sgomberi diciamo meno eclatanti, nel senso che magari non venivano le camionette con le strade bloccate così. Però per esempio in alcuni quartieri popolari o comunque dove ci sono case Aller, dove alcune di noi vivono, venivano fatti un po' in sordina, no? Quindi magari con le volanti, oppure veniva una rete, staccava la luce, allora ne approfittavano per fare scusate, lo sgombero. E quindi insomma, poi ci sono anche dei modi più sottili, però... Sì, certo, gli sgomberi coatti sono continuati. Noi siamo riusciti comunque a essere presenti anche tramite pratiche di mutualismo, a portare la spesa all'asciura. Comunque siamo riusciti a vedere alcuni sgomberi che volevano essere coatti, appunto. Bene, io se non ci sono altre cose, a parte la tosse, che era per la birra di Traverso, possiamo magari presentare la canzone che segue. Prima magari volevamo ricordare tipo i numeri a cui potete scriverci al 351 91 82 889, sia su Telegram o su Signal in diretta per richieste o varie cose. Quindi dicevamo, la canzone è di Kenny Arcana, La Rage, sperando che... Com'è che è il coro di Laghi? Ok. Demande à femme, la vie claque comme on se mêle sur les... puttana. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucan. C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Lorsque tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Il va pire. Mais nos cris aillent s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car notre cisane a touché pas ôter sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de grands apports ancêtres. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. L'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire, nous s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Un soumis sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Pronto? Sì. Ciao, sei una radio? Sì. Ho sbagliato. Allora, siamo su Mala Radio, siamo in via Padova, eccezionalmente, un po' perché è l'ultima puntata prima delle meritate, della meritata pausa estiva, e un po' perché quest'oggi, in questo quartiere, un po' più lontano da qua, c'è stato uno sgombero in via Iglesias, altezza Gorla, per intenderci. Uno sgombero di questo stabile dove c'erano ormai da 3 anni una cinquantina di famiglie singole con bambini. Queste persone dall'oggi al domani sono rimaste senza un tetto sulla testa. Questa cosa succede ormai troppo spesso in questa città dove ci sono troppe persone senza casa e tante case vuote senza persone. In un quartiere come quello di via Padova che sta risentendo, è nel mirino di quel processo che si chiama gentrification che sta innalzando i prezzi delle case, rendendo impossibile per chi ha uno stipendio normale o chi non riesce a trovare un lavoro continuare a vivere qua in affitto o trovare una casa in affitto qua. Questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo, un contesto per il quale molto probabilmente la proprietà dello stabile abbandonato da più di 10 anni si è ricordata di avere questo stabile dove prima c'era una fabbrica tedesca di chiodi, viti, meccanica, non so come definirla. Comunque c'era questa fabbrica, questo proprietario per anni ha lasciato all'incuria, all'abbandono questo stabile, tant'è che alcune famiglie della zona avevano cercato di rintracciare la proprietà per poter capire se si poteva fare un parco giochi, un ci raccontavano anche per poter fare un luogo per giocare a soft air, far giocare a soft air i bambini, per dirvi, per farvi capire quanto questo spazio fosse abbandonato e lasciato all'incuria. In questi ultimi anni il proprietario si è ricordato di avere questo stabile, appunto perché tutta quella zona di Viale Monza, compresa anche questa, si sta riqualificando. Non so se avete visto, se ogni tanto per necessità o curiosità andate a vedere i prezzi degli affitti in questo quartiere, al metro quadro, comunque di monolocali, bilocali. Questo ci dà un'idea, appunto, dell'innalzamento dei prezzi. Così quindi alla proprietà di questo stabile interessava molto vendere la proprietà per appunto poi rifare per farci soldi, perché come diceva una signora che assisteva allo sgombero stamattina, una vicina di casa molto preoccupata per una colonia felina lì vicino, ci raccontava anche che era disgustata da questa cura e attenzione e protezione da parte del comune, della polizia, dello Stato, del profitto a scapito delle persone e degli animali in questo caso. Quindi questo per contestualizzare un attimino la storia di questa, il contesto di questo sgombero e della precedente occupazione. Tant'è che almeno da un anno fa, se non erro, forse anche di più, questo stabile era sotto sequestro. Sotto sequestro, denunciando delle persone un po' a caso, che infatti poi il processo si è risolto nel nulla, invece poi è stato conseguentemente a questa figuraccia che ha fatto l'avvocato della proprietà e la procura, è stato aperto un altro processo contro ignoti e lo stabile continuava fino a oggi a essere sotto sequestro. Questa pressione, questo interesse nei confronti di questo stabile abbandonato da anni è stato anche dimostrato quando ormai 2 anni fa l'avvocato della proprietà si presenta davanti alle porte dell'occupazione di Iglesias minacciando di chiudere l'acqua. Questa cosa è un po', fa sorridere talmente al di là del bene e del male. E chiudere l'acqua in maniera, così un avvocato che prende, apre il tombino, chiude l'acqua, non sapeva, secondo me non avrebbe neanche saputo riconoscere il tombino, e si è fermato solo quando ha visto che c'erano tante persone, bambini. E questo per farvi capire, insomma, in che società ci stiamo muovendo, no? E la storia anche di questa occupazione, tra l'altro vissuta da abitanti che venivano da un altro precedente sgombero, lo sgombero di Via Palmanova, che è qua vicino, dietro, insomma, Via Cesana, Via Palmanova, dove ci sono queste case di MM, questi tanti lotti di case fatte con i soldi dei lavoratori negli anni 60-50, so se ce li avete presente, sono proprio di noi. E nel 2018 a giugno c'è stato un maxi sgombero, lì sì che c'erano gli elicotteri, c'era veramente uno spiegamento di forze inaudito, avevano anche chiuso la tangenziale, appunto. Comunque questo era lo sgombero del 2018, da dove sono state sgomberate le famiglie che poi hanno trovato come soluzione occupare questa palazzina. Chiaramente le case di MM in Palmanova Cesana, molte di queste continuano a rimanere vuote. Hanno fatto sì un bel murales con un felino che ci vuole venire incontro, bellissimo, però il problema persiste. Stasera c'era una presentazione di un film, c'era una proiezione di un film di Quasi Amici in via Cesana, via Palmanova, e va bene, sono molto belli i momenti di socialità, io sono una gran fautrice, però io ci vedo tanta, come si dice, falsità, incoerenza, ipocrisia nel fare queste iniziative mentre ci sono delle case vuote e delle persone continuano a rimanere senza un tetto sulla testa, perché a noi magari non è successo, però a molte altre persone può succedere, magari domani potresti essere tu o io o un'altra persona boh, magari dovremmo iniziare a smettere di far finta di niente. Basta. Ora ci sentiamo un paio di canzoni, Punk Hardcore, prima il contrasto con 100 fiori sono sbocciati e poi Offspring con Why Don't You Get a Job. She wants more dinero just to stay at home. Well, my- Bentornati in diretta a Mala Radio, sempre qui in diretta da Via Padova. Adesso vorremmo ricordare un fatto molto grave che è successo venerdì scorso a Biandrata, in provincia di Novara, davanti ai magazzini della Lidl. Un operaio della logistica, nonché RSU dei Sicobas Adil, è stato investito da un camion di un padroncino. E riteniamo questo un fatto molto grave perché non è la prima volta. E ricordiamoci, nel 2016 Abdel Salam a Piacenza, davanti ai magazzini della FedEx. Questo vuol dire che all'interno della lotta della logistica, i sindacati che fanno conflitto, i compagni che fanno conflitto, danno veramente fastidio ai padroni, e quindi è successo questo fatto molto grave. E c'è stata una manifestazione il giorno dopo, sabato, a Roma, già convocata, e i compagni di Sicobas hanno dedicato la manifestazione ad Adil. E la cosa strana, sembra che si siano svegliati tutti i media su questo fatto, ovviamente però dando la loro versione. Addirittura passava l'idea che Adil non doveva essere lì perché doveva lasciare libero lo spazio al camion. Quindi siamo veramente all'assurdo. E adesso un giro per l'Italia, all'interno dei compagni ci sono stati già dei momenti di solidarietà e soprattutto raccolta fondi per la famiglia. Noi come radio, che vogliamo stare accanto alle lotte, riteniamo che la lotta della logistica sia un punto fondamentale, come la lotta dei rider, come la lotta di tutte quelle categorie di lavoratori che non sono nient'altro che degli sfruttati. Sì, poi come dicevi giustamente, che come sempre è stato il racconto, oltre al fatto che si diceva Adil non doveva essere lì, comunque Adil è morto ammazzato da questo investimento. Poi c'è stata anche tutta una retorica agghiacciante, no, allora chi guidava il camion era come un pazzo furioso, no? E sempre così vengono eliminate invece le responsabilità che sono più sistemiche, e come è stato ribadito da tanti sindacati, da tanti compagni, da tante persone, banalmente, invece no, cioè non era né che Adil doveva essere lì, né che un autista è impazzito improvvisamente, ma sono colpe sistemiche, e la ragione una è stata detta tante volte, è il profitto, far funzionare un sistema che è mortifero, e quindi insomma c'è una responsabilità che è molto più alta e più ampia, purtroppo forse è più difficile lottarci contro, però gli operai della logistica lo fanno ogni giorno, lo fanno nei picchetti, lo fanno nelle fabbriche, e quindi noi siamo vicini a queste lotte. Ovviamente ricordiamo Adil soprattutto con rabbia, e ora magari cerchiamo qualche parola proprio del Sicobas, ma non solo, perché c'è stato anche chi giustamente ha detto insomma di superare anche un discorso di sigle sindacali in generale, soprattutto quando succedono cose di questa gravità, che è inaudita, perché come abbiamo raccontato prima si perde la casa, ci si trova sbattuti in strada, qualcuno muore perché sta facendo un picchetto, e insomma vabbè, noi cerchiamo di raccontare queste cose. Adesso magari vi leggiamo le parole del Sicobas e anche di altre che si sono espressi su questo. Questo è un pezzetto del comunicato scritto il giorno dell'uccisione di Adil, appunto questo compagno del Sicobas, e dice: la morte di Adil rende ancora più evidente ciò che era già chiaro alla luce della crescita esponenziale delle morti sul lavoro registrate in questi mesi di crisi pandemica. Per i padroni i profitti valgono più della vita umana. Denunciamo con forza che questa morte non è stata provocata dalla follia di un singolo, bensì è il frutto di una guerra a tutto campo contro la classe lavoratrice, alimentata dall'omertà delle istituzioni e dal collaborazionismo dei vertici confederali. Domani, perché scrivevano il giorno prima della manifestazione a Roma, Domani Aldi sarebbe stato con noi a Roma per manifestare contro lo sblocco dei licenziamenti, contro il nuovo farsa del CCNL Trasporto Merci e Logistica e a sostegno della lotta dei lavoratori FedEx di Piacenza. Il dolore per la perdita del nostro dirigente nazionale ad opera di un vigliacco criminale è indescrivibile, ma non appanna, anzi rafforza le ragioni della manifestazione di domani a Roma, perché si tratta delle stesse ragioni e della stessa causa per cui Adil si batteva da anni e che sono alla base della tragedia di stamattina, la lotta per l'emancipazione dei proletari dalla barbarie capitalistica. Adil vive nelle nostre lotte, il suo sangue non sarà versato in vano. Onore a te, compagno. Scritto il 18 giugno 2021 dal Sicopas Nazionale. Magari mandiamo una canzone e poi dopo magari vi leggiamo qualche altra cosa. Le vent les portera. E bentornate, bentornati su Mala Radio, siamo sempre in diretta da via Padova davanti all'anagrafe e ricordiamo proprio così spot che il comune è responsabile tanto quanto la regione, i privati che speculano su questa città, degli sgomberi, del caro affitti e di situazioni che rendono questa città invivibile, ma noi vogliamo anche dire qualcos'altro, cioè che qui è appena arrivato un corteo fatto dalle persone che abitavano in via Iglesias, che questa mattina è in una vecchia fabbrica abbandonata, che questa mattina è stata sgomberata con tanti solidali, compagni e compagne, persone che si sono unite a questa passeggiata. Ricordiamo a tutte e tutte quelli che adesso sono qui, vabbè magari ora saranno un po' stanchi dalla passeggiata, però che i microfoni sono aperti, che Mala Radio nasce proprio per raccogliere le voci dalla strada e per raccontare quello che non viene raccontato dai media ufficiali. Abbiamo sentito le voci proprio in diretta dal corteo che si è mosso da Esserle fino ai Via Iglesias. Via Iglesias era un'occupazione abitativa che viveva da 3 anni, le persone con forza e coraggio l'avevano reso un posto abitabile, era una vecchia fabbrica abbandonata, ci avevano fatto un orto, si auto-organizzavano insieme, cercavano di lottare su tante questioni, dal fatto che ci sono tante persone senza documenti che hanno una vita invivibile nella metropoli, al fatto che si vuole vivere insieme e darsi una mano. Abbiamo parlato anche delle situazioni in altri quartieri popolari, per esempio in Barona, che in questo periodo è stata martoriata dagli sgomberi e il motivo sono sempre progetti di speculazione, social housing, insomma questi nomi un po' inglesi che in realtà vanno solo a smantellare l'edilizia popolare, a cacciare fuori chi già abita nei quartieri popolari. Abbiamo ricordato Adil, che è un compagno sindacalista che è stato ammazzato durante un picchetto, e abbiamo letto delle parole scritte dai suoi compagni di lotta del Sicobas. E adesso rimaniamo qui tutte e tutte insieme, chiunque voglia dire qualche parola qui su Mala Radio, ovviamente parliamo anche al quartiere se ancora qualcuno ci ascolta dai balconi. Prima ci hanno anche scritto, abbiamo mandato una canzone che ci è stata richiesta, dopo vi diamo il numero se volete scriverci, proporre qualche cosa, dire la vostra, o anche se ovviamente volete venire qui con noi è bello. E niente, restiamo con i microfoni aperti qui in diretta da via Padova. Buonasera. Siamo ritornati dalla passeggiata che in un primo momento volevamo solo fare in via Padova, poi abbiamo deciso, abbiamo cercato di andare sotto la casa sgomberata. Abbiamo attraversato i giardini pubblici, siamo arrivati nei pressi e la via Iglesias era completamente blindata. Siamo stati lì, abbiamo lanciato gli slogan, un compagno ha fatto un intervento. Un intervento dove ribadiva che le occupazioni delle case sono, oddio mi sono persa, scusate, allora, dove appunto ribadiva che il problema della casa non può essere disgiunta anche dalle condizioni lavorative, anche dalla difficoltà che si ha. È intervenuto anche un altro nostro compagno, Ayub, che ha fatto presente che purtroppo anche nelle case messe in affitto, se al telefono sentono che la voce non è perfettamente italiana, magicamente questa casa in affitto sparisce. Per cui non è... Al di là proprio della carenza delle case, c'è anche questo aspetto un po' di razzismo. E niente, comunque siamo stati lì, abbiamo ribadito che comunque le case a un certo punto bisogna prenderle, perché se no si sta in mezzo alla strada. E tra l'altro una riflessione mia, io lo so che magari lo Stato non si pone il problema... di risolvere i problemi, però è più che altro una roba umana, non è tanto un intervento politico, però io non riesco a capire come si possa all'inizio dell'estate sgomberare una ventina di famiglie con una quindicina di bambini, cioè è una cosa che non riesco a capire. Soprattutto non riesco a capirlo quando siamo comunque in un periodo di pandemia. Noi da lunedì andremo tutti in giro senza mascherina, tutto quello che voi volete, però non, è una roba che sinceramente io non riesco a capire. non riesco a capire, perché qua si parla tutto, state in casa, mettete le mascherine, eccetera, eccetera, poi si permette che persone, ma per la loro condizione, che non sono state vaccinate, che probabilmente non hanno anche tutto un iter assistenziale che magari noi abbiamo, non riesco veramente a capire perché è successa questa cosa. Cioè, riesco a capirla, però non me ne capacito. Grazie. Se qualcun altro, qualcun'altra vuole parlare, c'è sempre il microfono aperto. Beh, a proposito di quello che diceva la compagna adesso, volevo rispondere che c'è la spiegazione che chiaramente le case devono dare profitto, tutto quello che esiste in città deve dare un profitto. E volevo anche raccontarvi che mentre eravate via, un altro signore si è fermato ad ascoltare la nostra trasmissione e ci ha raccontato appunto che anche lui viveva in una casa comunale che è stato sgomberato e che adesso si ritrova a dover pagare 800 euro al mese con anche lui con i suoi figli e non sa come fare, perché ovviamente questi 800 euro al mese non potrà pagarli prima o poi. Milano è una città con degli affitti esorbitanti e quindi occupare è giusto, è dignitoso ed è l'unica maniera probabilmente per poter continuare a vivere qua in questa città. Ciao a tutte, ciao a tutti. Noi siamo qua come Murga Libre. La Murga Libre nasce nello spazio di Via Iglesias. Noi siamo nate, veniamo da lì. Lì abbiamo iniziato a suonare, abbiamo iniziato un percorso che è libero, è aperto a tutte e tutti e soprattutto è gratis. Perché anche noi abbiamo un problema di dove fare le prove, di dove stare, dove essere in questa città. E noi lì abbiamo condiviso momenti bellissimi con gli occupanti, fra di noi ci sono stati momenti di festa, momenti di assemblea, momenti di condivisione. Per noi Via Iglesias è stata una casa, per questo eravamo qua oggi, abbiamo suonato anche se in pochi, perché volevamo che venisse giù il cielo di questa città. Ricordiamo cos'è la Murga, ci racconti che cos'è per chi non lo sapesse. La Murga è tante cose, la Murga è un'arte di strada che nasce in Argentina e che porta la musica, la ribellione, il carnevale attraverso la musica, la danza e la condivisione, con l'idea che l'arte possa arrivare a tutte e tutti ed essere soprattutto anche in questo, come in questo caso, uno strumento per dar voce a un'ingiustizia e a una protesta. Penso che basta, volete dire qualcosa? Grazie mille. Grazie. Grande. A voi. Allora, mettiamo una canzone, comunque se volete quando torniamo dopo la musica, comunque rimane sempre il momento microfono aperto, sentiamo un pezzo dei frammenti scivolando via. We'll be right back. amici. Allora, torniamo in diretta con Mala Radio Milano, sono le 21.42 e ricordiamo insomma quello che è successo oggi in questa lunga giornata. Alle 6:30 di mattina sono entrati in via Iglesias 27 le forze dell'ordine e hanno sgomberato una cinquantina di persone, donne, bambini, famiglie, e hanno sgomberato soprattutto uno spazio di socialità, uno spazio dove c'era l'orto, dove vigeva l'autogestione e dove, come abbiamo sentito anche prima, altre realtà anche semplicemente musicali, e non per dare poco rilievo alla musica, anzi, come la Murga Libre si organizzava e poteva fare le prove lì. Allora, continuando a parlare di sgomberi, cercando di tenere questo filone all'interno dell'ultima puntata stagionale di Mala Radio, abbiamo parlato insomma di oggi di Iglesias, poi continueremo a lasciare il microfono aperto se mai qualche abitante o qualcun'altra vorrà fare qualche intervento. Abbiamo parlato con un compagno di Barona che è stato il quartiere popolare più bersagliato nel 2021 dagli sgomberi delle case occupate, degli alloggi Aler, praticamente ce ne sono 1-2 a settimana minimo in Barona da marzo a questa parte. E adesso facciamo un salto un po' internazionale, per non dire internazionalista, e proviamo a sentire una compagna di Berlino che insomma è anche lei all'interno della redazione di un'altra radio che si chiama sempre Mala Radio. Non c'è solo Mala Radio a Milano, ma c'è anche Berlino, quindi volevamo insomma un po' compiere questo gemellaggio, e ci spiegherà anche lei un po' della situazione degli sgomberi a Berlino. Una settimana fa circa gli sbirri sono entrati, hanno provato a sgomberare, poi ci spiegherà lei meglio, Rigger 94, ma la situazione degli sgomberi a Berlino è un po' più complessa e complicata, e ora proviamo a parlare un po' con lei. Ciao, ci senti? Ciao, io vi sento, sì, voi? Sì, sì, ti sentiamo. Abbiamo un po' di problemi di microfono, eccetera, perché siamo in diretta, è bello della diretta. E comunque niente, va bene, allora ti abbiamo un po' introdotto e niente, da dove vuoi partire? O se ci vuoi spiegare un po' il progetto della radio a Berlino, se vuoi partire un po' dagli sgomberi, come vuoi te. Sì, magari inizio dalla radio così abbiamo capito da dove vengo e cosa vuol dire questo gemellaggio anche. No, niente, anche noi abbiamo a Berlino una radio chiamata Mala Radio, che è nato un po' come un progetto durante la pandemia, con un tentativo diciamo di riappropriarsi di degli spazi, nel senso che la radio noi la mandiamo sempre in diretta dallo spazio che usiamo, che dà su una piazza, una piazza Friedrichshain, un quartiere estremamente gentrificato di Berlino, e quindi un po' per le restrizioni che comunque impedivano chiaramente una comunicazione anche politica di un certo tipo, e anche diciamo per appunto davvero avere una voce su quella piazza, abbiamo deciso di iniziare ad avere con cadenza in realtà non molto regolare, un po' così come facciamo noi gli eventi un po' ogni tanto, questa radio in cui si tratta di tanti argomenti diversi. È una radio anarchica libertaria e finora sì, abbiamo trattato varie cose, abbiamo parlato di carcere, abbiamo fatto un grande evento per il 25 aprile in cui abbiamo parlato di antifascismo nel passato, nel presente, di complottismo, abbiamo supportato diverse iniziative che ci sono in città, quando ad esempio c'è stato lo sciopero della fame di Dimitris Kufuntinas e varie altre cose. Sì, e da questo punto di vista direi che il gemellaggio ci sta, perché anche noi all'epoca abbiamo parlato insomma dello sciopero della fame del compagno greco Kufuntinas, che è durato più di 60 giorni, addirittura ha durato più dello sciopero della fame del compagno nordirlandese Bobby Sands, però è riuscito insomma, questo compagno è veramente un leone, una roccia, è fortissimo a sopravvivere. E vabbè, fatta questa prefazione, insomma, se ci vuoi parlare un po' della situazione insomma degli sgomberi a Berlino, di come si muovono rispetto a Milano, così magari possiamo fare anche un confronto eccetera, ma anche della situazione occupazione barra abitativa, che è un pelo differente dall'Italia, sarebbe abbastanza interessante fare questo confronto raffronto. Sì, assolutamente. Allora, a Berlino la differenza fondamentale rispetto all'Italia è che diciamo di occupazione vere e proprie è tanto tempo che non ce ne sono. Ce n'è qualcuna che però è puramente il risultato del fatto che la legalizzazione che è avvenuta negli anni a un certo punto fa vedere la vera faccia di quello che è spesso fare accordi con lo Stato, quindi il fatto che i contratti scadono, gli immobili salgono nel valore, quindi diciamo l'incentivo a rinnovare i contratti non è più lo stesso, eccetera eccetera. Nel senso che Berlino è una città che, vabbè, magari questa è una cosa abbastanza risaputa, dopo la caduta del muro negli anni 90 ha avuto un'enorme ondata di occupazioni molto politicizzate di tipo diverso. Tutte queste occupazioni in realtà già diciamo dal 92, poi andare sempre di più verso gli anni 2000, sono state tutte legalizzate in un tentativo diciamo di pacificare anche la situazione, che era effettivamente molto calda ancora al tempo. E negli ultimi anni cosa è successo? È successo che Berlino chiaramente è stata individuata dal mercato internazionale come una delle città più su cui puntare da un punto di vista di speculazione capitalista, e ciò vuol dire anche che tutti quegli immobili che prima erano lasciati un po' così ai movimenti, agli occupanti, pian piano uno dopo l'altro i contratti scadono, e quindi di fatto ci sono delle situazioni in cui le occupazioni si creano perché non c'è più un contratto in atto. Quindi questa diciamo è la situazione delle occupazioni berlinesi, e soprattutto spesso non sono occupazioni abitative come intendiamo magari in Italia, ma sono house project estremamente politicizzati, quindi abitano anche delle persone, però diciamo sono spesso soprattutto compagni e compagne che gestiscono la situazione, quindi è anche un po' diverso, diciamo, come situazione sociale proprio. E niente, quello che è successo la scorsa settimana, per tornare adesso a fatti un po' più recenti, è anche lì abbastanza complesso, nel senso che la 94, la Riegerstrasse 94, che è questa palazzina composta da una parte davanti e una parte dietro, sulla Riegerstrasse, che è una delle strade in cui appunto ci sono state nel corso degli anni tantissime occupazioni poi legalizzate, ha dovuto essere controllata per delle questioni di antincendio. Questa cosa era già stata fatta insieme al comune, nel senso che gli abitanti della casa avevano permesso a un perito del comune di entrare e fare le giuste valutazioni. Poi è stato deciso dal proprietario dell'immobile che comunque doveva essere necessario entrare con un suo perito, e quindi tutta questa situazione, con la scusa, diciamo, del fatto di non essere abbastanza sicuri con questo perito nell'entrare della casa, è stata accompagnata da un'immensa quantità di polizia mandata dai vari stati federali della Germania, tantissime unità per accompagnare questa persona che di fatto l'unica cosa che avrebbe dovuto fare sarebbe quello che era già stato fatto settimane e settimane prima. Quindi diciamo che tutto il movimento berlinese si è un po' mobilitato, perché sembrava effettivamente una situazione in cui gli appartamenti e gli spazi della casa che legalmente non sono in possesso di un contratto potevano essere sgomberati. Questo per fortuna non è successo, nel senso che mercoledì mattina c'è stato il primo tentativo, diciamo, della polizia di chiudere la zona attorno alla casa, di creare una zona rossa, che è stato affrontato da compagni e compagne con barricate, scontri, eccetera, eccetera. E giovedì sono poi effettivamente entrati nella casa, nel senso che la forza di polizia era tale da non permettere effettivamente di resistere davvero alla cosa. Sono entrati con, tra l'altro, delle squadre speciali, idranti, portando qualsiasi cosa, e di fatto però hanno semplicemente fatto questo controllo antincendio, di cui anche il perito ha detto che in realtà non c'era davvero necessità, nel senso che non ci sono particolari cose. Quindi questa, diciamo, è stata tutta la situazione. Chiaramente questo è stato uno degli ennesimi tentativi di entrare in un progetto che è estremamente politicizzato, che è uno dei centri davvero forti del movimento anarchico e degli autonomen tedeschi, e quindi sì, è stato ancora una volta, diciamo, un attacco alle strutture organizzate più che, diciamo, un tentativo di sgombero come magari sta succedendo lì a Milano adesso. Quindi pronto, mi senti? Sì, sì. Ok, volevo sapere, quindi lo sgombero di Riegerstrasse, quindi è durato tutta la giornata o è durato su più giorni? Allora, non c'è effettivamente stato uno sgombero, nel senso che loro sono entrati e poi non hanno sgomberato niente, hanno semplicemente fatto questo controllo, cosa che non ci si aspettava, nel senso che ci si aspettava tutto un altro contesto. Per fare questo però mercoledì hanno iniziato a creare questa zona rossa. Tutto il mercoledì c'è stata la zona rossa, quindi polizia ovunque, sui tetti circostanti, le persone che non potevano passare, le macchine che non potevano parcheggiare, sono stati attaccati ripetutamente, e giovedì, quindi due giorni in totale è durata questa cosa, sono effettivamente entrati nella casa. Anche lì c'è stata una resistenza molto forte da compagni e compagne, che però, viste le cifre messe in campo, non è bastata per non farli entrare, e lì effettivamente sono riusciti a andare dentro la casa. Poi i motivi esatti per cui non abbiano deciso di portare avanti uno sgombero non sono ancora chiari. Sicuramente succederà ancora qualcosa, nel senso che la situazione continua a essere molto tesa, quell'immobile è, grazie ai vari momenti di gentrificazione della città ha assunto un valore enorme, quindi sicuramente non li lasceranno in pace da adesso in avanti. Ok, un'altra domanda che pensavamo di farti era se già avevano provato altre volte ad entrare dentro lo squat, dentro l'occupazione, dentro Rigger 94, provando a sgomberarlo, se è stato, diciamo, il primo tra virgolette avviso poi concluso da parte delle guardie. No, è stato provato. Allora, la storia della 94 è estremamente interessante perché in realtà è un posto occupato dagli anni 90, quindi sono 30 anni, cioè dal 90 è occupato. Ci sono stati a più riprese tentativi di sgombero e anche sgomberi riusciti, e però nonostante questo sono riusciti ogni volta a rioccupare il posto. E anche ultimamente, quando ci sono stati tentativi, magari nel 2013-2016, credono che siano state le ultime due volte, sono riusciti ad entrare, ma ancora ad avere uno sgombero effettivo che poi sia rimasto tale, non sono riusciti a portarlo a termine, anche perché, come dicevo, sono compagni e compagne davvero forti nel, diciamo, creare anche un sostegno di un certo tipo. Ok, un'altra domanda che volevo farti era, siccome prima hai fatto un po' una prefazione, un preludio riguardo la situazione degli sgomberi, degli spazi occupati prettamente politicizzati a Berlino, volevo chiederti questa cosa giusto così a titolo informativo. A Milano, come, cioè, oggi è vero, hanno sgomberato un'occupazione abitativa che comunque è correlata a un percorso politico all'interno della città. Gli sgomberi di spazi politicizzati a Milano avvengono spesso, in quest'anno sono state tentate varie occupazioni e sono state sgomberate quasi immediatamente, qualcuna resiste in varie forme eccetera, però la problematica principale della città è legata riguardo gli sgomberi, praticamente lo sgombero di case popolari occupate. Le case popolari, ricordiamo, a Milano le gestisce l'ALER, che l'ALER quindi non assegna da anni, e una certa la gente decide di auto-organizzarsi per vivere e sfonda fondamentalmente le case e ci va a vivere dentro. Quindi gli sgomberi principalmente a Milano vertono su questa tematica qui. Volevo chiederti se a Berlino più o meno succede la stessa cosa, oppure ci sono meno occupazioni di case insomma popolari, o se esiste o se è tutto sotto accordo, insomma, più o meno. Ecco, allora, questi sono due temi super interessanti, nel senso che da un lato la questione case popolari di per sé è molto diversa, perché grazie al Senato dell'inizio degli anni 2000, quindi diciamo quello che è il governo dello Stato federale di Berlino, quelle che erano le vecchie case popolari sono state praticamente vendute, tre quarti dell'intera somma delle case popolari, a conglomerati di immobiliari che adesso le gestiscono. Quindi tutto quello, diciamo, che era casa sociale non esiste praticamente più. Questo è un punto. E l'altro punto è che purtroppo qui le occupazioni, come dicevo prima, davvero abitative non esistono. Cioè, i posti che sono occupati sono posti di solito politici, in cui si portano avanti determinati percorsi, e questo è dovuto a tutta una serie di fattori, sicuramente di tradizione, di come funziona il movimento e anche sicuramente, diciamo, a un ruolo diverso magari dello Stato. E però qui anche, come dicevi tu, c'è stato un attacco molto forte nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto in modo ancora più intenso verso questi tipi di progetti, nel senso che adesso c'è stato questo tentativo di attacco verso la Rigger 94, a marzo di quest'anno è stato sgomberato la Meuterei, che è un altro posto che è sempre servito da spazio politicizzato a Kreuzberg. A ottobre dell'anno scorso è stato sgomberato l'IBIG 34, che è un house project che è praticamente di fianco alla Rigger 94, quindi sulla stessa strada, diciamo, è anche questa una delle occupazioni storiche che è lì da 30 anni. Quindi, e l'agosto dell'anno prima, quindi davvero nel corso di neanche un anno, è stato sgomberato il Syndicate, che è stato un altro posto storico per la scena berlinese. Sì, qua si vede proprio che sistematicamente, anche col favore della pandemia in parte, c'è stato un attacco palese alle strutture di movimento. E questo chiaramente adesso ha provocato tutta una serie di problemi e si dovrà vedere come andare avanti, diciamo, nel tentativo di riappropriarsi degli spazi. Ok, guarda, ti faccio l'ultima domanda perché sei stata abbastanza esaustiva riguardo l'argomentazione. No, abbastanza, più che esaustiva, scusami. siccome appunto gli sgomberi delle case popolari o comunque anche dell'occupazione a Milano sono principalmente legate al fenomeno di gentrification e riqualificazione che investe Milano ormai dagli inizi dal 2000 e che a varie ondate accelera il suo percorso. Come è stato per Expo, adesso alloggi, insomma, c'è nel mirino da parte degli speculatori il fatto delle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina, e quindi, diciamo, tutta una serie di sgomberi o di zone dove vengono cacciate le persone che abitano le case popolari può essere ricollegato a questa argomentazione qui. Volevo chiederti se anche questa cosa qui degli sgomberi a Berlino, cioè, può essere legata al fenomeno di gentrification che comunque è iniziato più o meno una decina d'anni prima nella capitale tedesca, più o meno penso quasi subito dopo la caduta del muro, però volevo capire se anche a Berlino questa cosa è correlata, insomma, a questa cosa qui. Certo, assolutamente. Questo sicuramente, nel senso che, appunto, come dicevi tu, Berlino dalla caduta del muro è stata proprio vista essendo una città in cui una parte della città sicuramente non era parte del mercato internazionale, quindi il capitale ha proprio visto la possibilità di fare un profitto del mille per mille. E se pensiamo a Friedrichshain, ad esempio, il quartiere di cui parlavo prima, dove c'è la Rigger 94, che è stata, appunto, da poco ha subito questo attacco, quello è un quartiere che nel dopoguerra e durante tutta la DDR nessuno voleva viverci, perché erano case vecchie, fatiscenti, c'erano un sacco di rovine ancora, quindi, diciamo, si è proprio trasformato completamente. Quello che invece abbiamo adesso è un quartiere completamente gentrificato, davvero anche abbastanza perso da un punto di vista politico, nel senso che ci abitano le classi cosiddette classi medio-alte creative, quindi le nuove giovani professionisti, e appunto c'è stato un processo davvero molto forte di spostamento di tutta quella che era la popolazione non desiderata in altre zone della città, e questa cosa è palese se uno guarda le foto di anche solo 10 anni fa, 20 anni fa, c'è stato un cambiamento totale. Un'altra cosa che sicuramente, perché tu nominavi appunto l'Expo, le Olimpiadi a Berlino, diciamo, ha dato una grande spinta e sta continuando a dare una grande spinta, e sarà molto interessante anche vedere come si svilupperà nei prossimi anni la cosa, è tutta la questione del digitale e della creatività e delle ditte diciamo tech. Adesso, ad esempio, ci sono a Berlino, cioè è una delle città europee in cui c'è la maggiore concentrazione di startup legate al digitale, quindi, diciamo, abbiamo comunque anche dei lavoratori spesso autonomi che guadagnano molto, che portano anche un certo lifestyle con loro, e quindi non vanno più al supermercato normale ma vogliono i supermercati bio, eccetera eccetera, quindi abbiamo questo tipo di pubblico, insieme però a una spinta di capitale gigantesco, nel senso che adesso, ad esempio, Amazon sta costruendo una delle torri più alte di Berlino nel quartiere di fianco a Friedrichshain, cioè già tra Friedrichshain e Kreuzberg. Tesla, che è un altro gigante, sta costruendo una fabbrica appena fuori Berlino. Al vecchio aeroporto di Tegel stanno costruendo una cosiddetta Urban Tech Republic, che sarà un conglomerato di startup del digitale. Quindi è palese che c'è una spinta proprio molto forte a rendere la città in un certo tipo di città digitale, ricca, dove le persone e le lotte non hanno più posto. Ok, va benissimo, hai nominato Amazon, io per chiudere dico giusto un paio di robe, che comunque a Milano, oltre, insomma, alle Olimpiadi eccetera, c'è in ballo tutta la zona, tutta la questione di costruzione di un mega centro commerciale, il più grande d'Europa, nella zona qui è nel nord-est, nel melzese del Westfield, e appunto per correlarsi al fatto di Amazon, in quella zona lì di Pioltello, Segrate, eccetera, dovrebbero essere costruiti gli hub che saranno appunto lungo la via della seta, saranno i principali snodi di interscambio delle merci che arrivano insomma dalla Cina e vanno verso l'Europa e poi il nord Europa e viceversa. Va bene, niente, noi ti ringraziamo per la telefonata, la pazienza e la disponibilità. Questa è stata una puntata in diretta, quindi con gli orari siamo andati un po' incasinati, anche perché c'è stato il corteo, abbiamo voluto dare voce al corteo. Niente, speriamo che questa collaborazione anche con Malaradio Berlino continui. Poi noi, questa è la nostra ultima puntata stagionale, ma da settembre comunque continueremo sicuramente. E niente, quindi ti salutiamo e spero che ci risentiamo insomma da settembre in poi. Sicuramente, grazie a voi, e vi mandiamo anche tanta solidarietà appunto in questo momento dello sgombero in via Iglesias. Grazie. Grazie, grazie a te. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, ora mettiamo un paio di canzoni che ci hanno richiesto prima. Una è Lo Sbirro di DJ Graf e poi ci sentiamo Ricky Gianco. Ce la sentiamo dopo. Coraggio voi là dentro! Venite fuori con le mani in alto! Sì, le mani verso il cielo! Guarda questa mia esibizione, amico. Sì, sì, t'ho detto. Lo sbirro mi punta, disturba le mie passeggiate. Lo sbirro si incanta, lui certe cose non le sa. Lo sbirro si allarga, comunque lui deve mangiare. Mi sotto controllo. Lo sbirro si imbianca finché finisce ad imbiancare. Lo sbirro si incarica, farci la carica. Lo sbirro è uno sbirro, lo sbirro deve controllare. Di sotto controllo, e chi controllo te lo fa. Guardate attorno, c'è la polizia, c'è pure la Roma, e i soldi girano di qua e di là. La la la la la la la la la la la la la la la la la la buttarci fuori di città. Sono tutti in fila lì per sei, però non sono mica amici miei. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda che ad una è fatto celerino, ma se ci prova a venire su, io dalle scale lo ributto giù. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh! quante stelle, sulla parete abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto. Se la tenete vuote, cari miei, le conserviamo intanto noi per voi. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. E questa era di Ricky Gianco, questa casa non la mollerò. Andiamo con le iniziative. La musica. Musica, maestro. Non si sente. Comunque questa musica è la solita musica che ci accompagna nelle iniziative. E la mettiamo perché di solito si accavallano, sono tante, abbiamo paura di non sopravvivere. Non è questa. Facciamo una specie di indovinello. Qual è quella canzone che parla della possibilità di sopravvivere o meno? Ce l'hai? Ok. Non è in italiano, dai, mettiamo. I will survive, Gloria Gaynor. Il bello della diretta. Se per caso qualcun altro l'avesse indovinata, ci può scrivere una mail a malaradio@artistici.org oppure mandarci un messaggio al numero, non me lo ricordo. Evviva, I will survive, Gloria Gaynor. Eccoci allora al momento delle iniziative, finalmente possiamo iniziare. E iniziamo proprio con domani, cioè la prima iniziativa che riportiamo, che è la Marciona, una marcia queer transfemminista che parte alle ore 17 dal giardino Attilio Rossi, e invece alle 21 ci sarà un presidio in Corso Cristoforo Colombo. Sabato 26 invece ci sarà Drink and Kick alle 14 a Ceriano Laghetto, e che sarà una serata, cioè una serata, un pomeriggio con la Dal Pozzo, e sì, che alla fine sarà una serata. Anche una nottata probabilmente. È quello che ci piace a noi. E invece, insomma, cose un po' più militanti in senso stretto, vi citiamo il corteo per Adil, che ci sarà a Novara, partirà da Piazza Garibaldi alle 15. E invece, sempre sabato, in serata alle 18 a Saronno, ci sarà Saronno Night, e questo già dice tutto, non serve, penso, aggiungere nient'altro. Sempre sabato, invece, da qualche parte a Milano ci sarà una Taz chiamata Ratataz, che appunto da qualche parte a Milano farà benefit per gli inguagliati, ci saranno varie cibarie vegane e a cura... ci saranno distro, banchetti, no, sempre sabato, sempre sabato. E poi ci sarà un DJ set discutibile prima e dopo i concerti, ci saranno concerti punk hardcore, tra cui con gruppi tra cui gli Stronzi, Contrau, Ostile, Mixnake e My Own Voice. Insomma, da qualche parte ci sarà, c'è l'evento su Facebook, Ratataz, Take Back the Street. Il 26 e il 27 il 26 e il 27 di giugno al Boccaccio ci sarà la Volpe e l'Uva, vignaioli da resistenti, e una cosa importante, il 27 ci sarà il pranzo benefit per la famiglia di Adil, facciamo una raccolta fondi tramite il pranzo che sarà una scarpetteria, quindi sarà una scarpetta generale con vari sughi, e sarà, il ricavato sarà donato alla famiglia di Adil, il sindacalista della Sicobas. Comunque volevo dire che l'iniziativa che i compagni e le compagne daranno al Boccaccio, benefit e bellissima, però è assolutamente una grande copiatura della scarpetta Scott Talent che c'è stata in via Gola il 16 giugno. Cioè, noi lo sappiamo. Ora arrivano e tutti fanno la scarpetta, prima il pane non sapevano manco cos'era in Lombardia, comunque vabbè. Siete un po' golacentrici, devo dirlo. Esatto, andiamo avanti. Allora, siamo a domenica e non so se la mia compagna voleva dirlo lei. No, dillo tu, vuoi. Lo dico io. Tu vuoi. Allora, domenica 27 giugno ci sarà un aperitivo al cinema organizzato dall'autodifesa femminista, e ci sarà alle 18.30 un buffet. Bibite, cibo super buono, lo cuciniamo noi, cioè non io personalmente, quindi vi potete fidare. E alle 21 invece ci sarà la proiezione di Diamante Nero. E l'iniziativa è benefit, i soldi andranno ai compagni che sono stati, diciamo, per il processo, scusate che ho uno dalla regia che mi fa le battute, e che è anche uno, vabbè, non dico niente, comunque per il processo Robin Hood. Il 30 giugno invece ci sarà il cinema Antifa al Parco Solari, ci sarà la proiezione Banditi a Milano alle ore 21. Ieri c'è stata la prima edizione, è stata molto partecipata, molto carina. Non va, sì va. No, in conclusione, vabbè, molto importante per tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, la diretta da Via Padova dopo lo sgombero di Via Iglesias. Il 3 luglio i comitati Lotta Casa e Territorio, l'assemblea dei comitati Lotta Uniti si vince, hanno chiamato un presidio davanti al Comune di Milano che, come abbiamo detto tante volte stasera, insieme alla Regione, alla Prefettura e responsabili degli sgomberi delle case Raller, MM e comunque ovviamente organizzando gli sgomberi anche degli spazi privati come era quello di Via Iglesias, hanno chiamato in Piazza della Scala un presidio per il diritto alla casa contro caro affitti, sfratti e sgomberi. Sabato 3 luglio, Piazza della Scala, ore 17. E scrivono: lottiamo per il blocco della svendita del patrimonio immobiliare pubblico, l'assegnazione delle case popolari, la salatoria delle occupazioni. Oltre a tutto questo andiamo a ricordargli anche, insomma, le loro responsabilità nello sgombero di cui tanto vi abbiamo parlato questa sera. E un'altra cosa, già che abbiamo rilanciato anche le iniziative di inizio luglio, visto che questa è l'ultima puntata stagionale, ricordiamo che il 2 e il 3 luglio ci sarà la festa e in villa occupata per il compleanno della villa occupata, che è occupata ben dal 1998, se non mi sbaglio, qualcuno mi può correggere. No, perché abbiamo un pubblico nutrito che ci sta anche dando fastidio. Grazie al pubblico. E poi volevamo ricordare un'altra iniziativa che, anche se c'è stata stasera, non abbiamo avuto modo di pubblicizzarla perché settimana scorsa ancora non era uscita, organizzata dal collettivo Colombia Paz Giustizia Social. Stasera alle 9 si è svolto all'Arci da Lodi, Castiglioni dello Stiviere, un incontro al titolo SOS Colombia, a che punto sono gli accordi di pace e dove sono i desaparecidos. Scusate, anche il DJ beve troppe birre ogni tanto. Comunque ci è piaciuta molto questa radio per strada, no, speriamo di ritornare. C'è un'ultima, c'è un'ultima, c'è un'ultima, un'altra iniziativa, the last but not least. E allora lascio sempre il 3 luglio alle ore 9 a San Fruttuoso di Monza ci sarà la proiezione del documentario fatto dal Foa Boccaccio, Abitare in Monza 2, in collaborazione col comitato abitanti San Fruttuoso contro la possibilità che venga distrutto il quartiere di San Fruttuoso a Monza, ore 21, via Valosa di Sotto. Bene, quindi notiamo che Milano si trasforma in un cinema all'aperto o in una radio all'aperto. Questo perché? Perché abbiamo bisogno di riprenderci le strade dopo un anno rinchiusi. E comunque, visto che ci sgomberano, ci spattano per strada, noi le strade le viviamo e le animiamo. Volevo ricordarvi, visto che questa è l'ultima puntata della radio per questa stagione, vi ricordiamo che a settembre invece torneremo forti e pimpanti. Abbiamo grandi cose in progetto per voi e per noi e per tutti e tutte. Vi volevo ricordare, se ci volete scrivere, a malaradio@autistici.org oppure di seguirci sul nostro blog malaradio.noblogs.org, perché non è detto che forse lo aggiorneremo un giorno di questi mesi. Però se la mancanza sarà tanta, se ci vi mancheremo così tanto, potrete ascoltare i podcast delle dirette. Esatto, che dove? Caricheremo. Caricheremo appunto di nuovo su malaradio.noblogs.org. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono se ci volete scrivere per suggerimenti o migliorie, e 351 91 82 889. Grazie per averci ascoltato, lo sappiamo che non siete numerosi, ma comunque ci ascoltate. Anche se volete usufruire dello streaming, perché va H24 tutta la settimana, si sono unite già diverse. No, non è vero, ho sbagliato qualcosa, mi guardano male dalla regia. No, no, tutto no, bene, no, ok? No, quindi se qualcuno ha in mente ma voglia di dire qualche cosa e usufruire di questo streaming, scriveteci, perché più voci abbiamo meglio, eh? Eh sì, da settembre probabilmente partiremo con la radio online, ma che sarà più completa e andrà in streaming 24 su 24, anche se non ci sono i programmi, potrete sentire la musica. Vedremo, lancio io l'ultima canzone, visto che mi è stato detto dalla redazione che ho una pronuncia pessima in inglese, quindi me lo rivendico. Certo, allora ci sentiamo. Questa è l'ultima canzone stagionale di Mala Radio, è Death from Raw White dei Blues Brothers. Buona ciao, serata e ciao, buonanotte amiche, a tutti. Ciao, amici. Ci vediamo alla prossima, un saluto. Ciao. Bye. buone vacanze, sperando che questi qua sgomberino un po' di meno sotto l'estate. Speriamo di difenderci le occupazioni piuttosto, perché sperare che loro facciano qualcosa non penso sia possibile. Rolling, rolling, rolling. Eccoci, volevamo chiamare la radio Inciampo all'inizio perché c'è stato un inciampo tra i cavi, ma adesso riprendiamo. È il bello della diretta. Dici come si qual era la pronuncia? Theme of Rawhide. From Rawhide. Grazie. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up, move them on, move them on, hit them up, rawhide, cut them out, ride them in, cut them out, cut them out, ride them in, rawhide. Disapproving, keep them doggies moving rawhide. Don't try to understand them, just rope, crow and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life. Move them on, hit them up, hit them up, move them on, move them on, hit them up, rawhide, cut them out, ride them in, ride them in, cut them out, cut them out, ride them in, rawhide. Rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide.